Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Siamo a Vilnius, in Lituania. È il 14 luglio del 2003, un'estate in cui si registrano temperature record in tutta Europa. Si dice sia l'estate più torrida degli ultimi 500 anni. Sono le 11 di sera, il caldo è meno soffocante. E sul telefono di Nadine Trintignant arriva un messaggio. Sois sage, Madeleine, et tiens-toi plus tranquille. Ta fifi battue. Sii saggio, mio dolore, e mantieniti più tranquillo. La tua piccola malmenata. Si tratta di un verso di Baudelaire, seguito da Ta fifi est battue, la tua piccola malmenata. A spedirlo è Marie Trintignant. Marie Trintignant. La figlia di Jean-Louis Trintignant, il famoso attore. È a Vilnius per girare un film per la televisione, la storia di Colette. Scrittrice, attrice, critica teatrale, giornalista. Insomma, un mito per la Francia dei primi del Novecento. Marie è la protagonista. Nadine, sua madre, fa la regista. Il fratello di Marie, Vincent, è l'aiuto regista. E Romain, il primogenito di Marie, interpreta l'amante giovane di Colette, imposto dalla regista contro il volere della casa di produzione. I Trintignant sono un'istituzione francese per quanto riguarda il cinema e lavorano spesso in clan. Nadine dice che è l'unico modo per stare tutto il giorno con i suoi figli. Quel 14 luglio è stata una giornata molto dura, complice forse il caldo. Marie è decisamente stanca e la madre la incalza tutto il giorno facendole rifare più e più volte la stessa scena, quella dove Colette è a letto col suo giovane amante interpretato da Romain, suo figlio. Marie non riesce ad essere carnale come vorrebbe la madre. Lei, che è sempre stata un concentrato di sensualità, quel giorno non riesce ad essere provocante come richiede la scena e le ordina la regista. Eppure è un leitmotiv che la perseguita da quando sono arrivati in Lituania alla fine di maggio. La madre le rimprovera di vestirsi in maniera troppo sobria, di essere sempre troppo schiva. Hanno già fatto molti film insieme, ma questa è la prima volta che si crea un attrito così forte. Così quella sera, per distendere un po' i toni accesi della giornata, Marie spedisce un SMS alla madre. Vuole rimettere le cose a posto e con una punta di ironia parla di sé come di Ta fifi est battue, la tua piccola malmenata, per far sorridere quella che sul set è una regista esigente. Ma come vedremo in seguito, le emozioni affidate ad un messaggio non sono sempre decifrabili. Non è facile leggere tra le righe sul display di un telefonino se si estrapola il tutto da un contesto ben preciso. Il cinema in casa Trintignant scorre nelle vene di tutti. Figlia del famosissimo Jean-Louis Trintignant, Marie ha iniziato a recitare da bambina nei film della madre, che nonostante il divorzio continua a farsi chiamare Trintignant, quasi fosse un bollino di garanzia. Conosce i grandi registi francesi e italiani e vive addirittura in Italia nel periodo del massimo fulgore del cinema italiano. Nasce nel 1962, lo stesso anno in cui il padre recita al fianco di Gassman nel Sorpasso di Dino Risi ed è il timido studente Roberto Mariani a bordo della Lancia Aurelia B24 che sfreccia sotto la guida sportiva di Gassman tra una Roma deserta di Ferragosto e il lungomare toscano. Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno, fino a quando schiatta, si capisce? Il ruolo che consacra Maria, attrice a tutti gli effetti, è quello in Série Noire, Il fascino del delitto, a 16 anni. Film diretto dal nuovo compagno della madre, Alain Corneau. Una delle cose che le vengono rimproverate spesso è di non essere mai uscita troppo dalla cerchia della famiglia. La famiglia, per i Trintignant, è importante. E Marie ne sente la responsabilità. Bambina timida e riservata comincia a recitare per uscire da quel mondo silenzioso che si è creata. Il cinema è la sua salvezza, la sua nuova forma di comunicazione con gli altri. Il cinema è la sua famiglia. E vivere le emozioni come su un set è l'unico modo per sentirsi vivi. Marie conosce quel genere di pathos, la stessa intensità che la porterà all'appuntamento col suo destino a Vilnius, quell'estate del 2003. La location è stata scelta dalla casa di produzione poiché l'Est offre prezzi concorrenziali. Inoltre si possono ricreare ambientazioni di ogni tipo. Nel caso di Colette, le scene che la vedono in Bretagna sono state girate a Klaipėda sul Mar Baltico, l'unico porto di mare della Lituania. Forse prima d'allora Vilnius non ha nessun significato per i Trintignant. È una città come tante altre dove trasferirsi per un po' con la troupe e girare un film. È l'unica città che ha dedicato una statua a Frank Zappa. potrebbe essere questo, un pretesto per ricordarla, un giorno. Marie è bella, è intelligente, è colta. Ha quella vena malinconica che la rende irresistibile. Non ha problemi a trovare l'amore, una donna così, e per sua ammissione si sente la regina delle famiglie allargate. Poco più che ventenne, si lega al batterista di un gruppo rock, Richard Kolinka, da cui nel 1986 ha un figlio, Roman. Senza troppi drammi, finita questa relazione, ne comincia un'altra con l'attore François Cluzet, dal quale avrà un altro figlio, Paul. Quando finisce con François, Marie ha uno dei periodi più difficili della sua vita. Ubriaca, fa un incidente in auto per il quale deve sottoporsi a un delicato intervento di chirurgia plastica. Il lavoro ne risente. È in quello stesso periodo che incontra Mathias Otnin-Girard, dal quale avrà Léon. La relazione con Mathias non dura a lungo. Tra i padri dei suoi figli è quello con cui ha più problemi. L'idea di famiglia allargata con lui non funziona molto. Ma arriva subito Samuel Benchetri, un giovane scrittore di 12 anni più giovane di lei e che le ridà la speranza. Samuel è un prezioso ricostituente per Marie e Marie per Samuel è un'ottima musa ispiratrice. Quando si incontrano, lui ha 21 anni, lei 33. Come in ogni amore che si rispetti, Marie ci mette l'anima. Si dedica interamente a Samuel e alla sua arte. L'11 maggio del 1977 si sposano. Marie si fa tatuare una S sulla spalla. Nel 1998 nasce il loro figlio Jules e nel 2000 Samuel pubblica il suo primo romanzo. Nel 2001 scrive Comédie sur un quai de gare che Marie e il padre Jean-Louis portano a teatro. La storia tra Marie e Samuel dà inizio anche alla carriera del compagno. Quando si mettono insieme, Marie ha già 3 figli, è una storia amorosa e professionale di un certo peso alle spalle, però sente che è la persona giusta, quella che la sa capire, che dà la giusta collocazione alla bambina che è dentro di lei. La famiglia Trintignant lo adora, ha riportato il sorriso alla figlia, lo accolgono come nessun altro dei precedenti compagni. È giovane, ha talento e fa star bene Marie così, viene accettato dal clan. Ma anche la storia con Samuel è destinata a finire. Quell'estate Marie è a Vilnius con il suo nuovo compagno. Un uomo che non ama le famiglie allargate e che non vorrebbe condividere Marie con nessun altro. Un bel cambio di abitudini per Marie, che è cresciuta artisticamente all'ombra della famiglia. È a fianco del padre, infatti, che interpreta uno dei suoi ruoli più importanti a soli 18 anni, nel film La Terrazza, di Ettore Scola. Abbiamo esagerato con l'autocritica. Al contrario, noi dobbiamo essere orgogliosi di aver sempre fatto un cinema intelligente. Intelligente e... Ma che sta dicendo? Non ho ancora scritto una riga. E non sei contento? Cinema, famiglia, amore. Questi gli ingredienti di cui si nutre Marie. Ma il suo nuovo compagno sembra non capire questo rapporto. Un rapporto che nasce dalla figura monumentale del padre, Jean-Louis Trintignant. Una delle cose più inspiegabili era perché lui doveva recitare e io dovevo andare a scuola. Mi chiedevo, perché lo pagano per recitare e a me non mi paga nessuno per andare a scuola? Per la solita regola del clan, Nadine Trintignant dirige anche i figli. Ora si trova a Vilnius, con Marie appunto, per una produzione televisiva sulla storia di Colette, scritta a due mani con lei. È la storia di una donna libera, grande provocatrice, che non aveva paura di niente, come Marie del resto. Ma quel coraggio adesso la sta abbandonando. Marie ha paura. Ha paura di gestire il suo passato con il suo nuovo compagno. La capitale lituana non è certamente il posto dove si vorrebbe passare un'estate così calda, ma il tempo stringe e si deve proseguire con le riprese. Marie sta organizzando l'arrivo degli altri suoi 3 figli. Roman, il più grande, è già con lei, poiché fa parte del cast. Mancano Paul, Jules e Léon. I rapporti col padre di Léon continuano ad essere tesi. Questo imprevisto non ci voleva. A Marie la famiglia è necessaria. Paul e Jules arrivano ai primi di luglio e anche Léon alla fine ce la fa. Stanno tutti all'Hotel Méridien, un albergo fuori dal centro, più adatto al soggiorno dei bambini. Ma qualcosa per Marie non funziona. È tesa, anche se ha intorno tutta la famiglia. La presenza del fidanzato complica le cose. Deve prendere una decisione. Il 16 luglio i bambini vengono rispediti a casa. Troppo difficile gestire tutto. L'ultima volta che si è sentita al sicuro è stata quando ha sposato Samuel, nel 1997. Ricorda che quell'anno in Francia aveva provato una profonda tristezza alla notizia della morte di Lady Di, una donna alla quale l'amore non aveva dato tutta la fortuna che sentiva di avere avuto lei, che stava ricominciando di nuovo. Perché ricominciare, se c'è l'amore, è la cosa più semplice del mondo. Ma anche con Samuele è finita. Il nuovo compagno, conosciuto solo l'estate prima, le ha fatto perdere letteralmente la testa. Maria è così, non riesce a tenere a freno il cuore. La passione l'ha presa a tal punto da lasciare l'uomo che l'aveva riportata alla vita. Samuel, però, oltre ad essere il padre dell'ultimo figlio di Marie e ad avere instaurato un legame fortissimo con gli altri tre figli, è anche il compagno con il quale i signori Trintignant si sono trovati meglio. La famiglia allargata che Marie ha sempre sognato ha certamente in Samuel il suo più grande sostenitore. Anche ora che lei sta con un altro, lui le sta vicino, la consiglia, vuole solo il suo bene. Si sentono spesso al telefono, anche solo con un SMS per sapere come va. Questa degli SMS è un'abitudine che proprio non va giù al nuovo compagno di Marie, geloso più che della sua nuova compagna, del suo ruolo di uomo di famiglia nel clan Trintignant. Ma chi ha allontanato Marie da Samuel e da una vita serena? Per scoprirlo, torniamo indietro di un paio d'anni. È l'estate del 2001 e Marie si trova a Marsiglia per girare un nuovo film. Si tratta di Total Kiops, tratto da un romanzo di Jean-Claude Izzo, il cui titolo è preso in prestito da una canzone rap che significa casino totale, come il titolo italiano. È un giallo ambientato nei quartieri nord di Marsiglia, città millenaria, multiculturale, ma anche un luogo di grandi lacerazioni. Marie è perfetta per questo film, lei che è sempre dalla parte dei più deboli. Si trasferisce quindi per un po' a Marsiglia. Le giornate passano tranquille, Marie si sente coccolata. Tutti sono simpatici, la compagnia è piacevole e si finisce alla sera andando tutti a cena insieme. Due chiacchiere, un bicchiere di vino, qualche risata sulle vicende della giornata appena trascorsa e cominciano le confidenze. È in questo contesto che Marie diventa amica dell'aiuto regista, Anne Cantat. Una ragazza un po' più giovane di lei, ma con la quale sente di condividere molto. È il destino che mette Anne sulla sua strada, cambiandole completamente la vita. A Marsiglia Marie è sola, ha lasciato i figli e Samuel a Parigi. E la presenza di Anne è fondamentale. Sente che non è una di quelle frequentazioni che si esauriscono con la fine delle riprese. Lo stesso vale per Anne. Le apre la sua casa, la invita spesso a cena e le racconta della sua famiglia. Alla televisione non si parla d'altro. Ai Grammy Award francesi, i Victoires de la Musique, il primo premio è dei Noir Désir, capitanati da Bertrand Cantat, il fratello di Anne. Alors, on a la victoire, on a l'enveloppe, album rock de l'année. Quando Marie le confessa di conoscerli solo di nome, Anne non ci vuole credere e così le regala tutti i CD del gruppo. Marie decide di ascoltarli una volta arrivata a casa. Vuole goderseli non nei ritagli di tempo delle riprese, ma comoda, sul suo sofà. Inserisce il CD nello stereo, si mette comoda e si concentra sulle parole. Le assorbe, le fa sue, le vive, quasi fossero una parte da interpretare in un prossimo film. Una specie di trasformazione è già in atto. In quella musica c'è qualcosa di più dei Noir Désir. Marie sente un'attrazione particolare. Deve mandare un SMS ad Anne. Sono impazzita per i Noir. Ascolto in loop il loro ultimo album. È stupendo. E Bertrand, fantastico. Devi assolutamente farmelo conoscere. If you should love me, then I cannot be to blame. Una cantante una volta ha detto: oggi è il primo giorno del resto della mia vita. Per me invece oggi è un po' diverso. Tutto comincia, ma in modo diverso. Il benessere ovunque. L'ho trovato per non lasciarlo mai più. Oggi anche i miei sogni sono diversi. Chi parla è Marie, interpreta la protagonista di Janice & John, il primo film di Samuel. L'esperienza di Marsiglia è terminata. Questo nuovo set dovrebbe aiutarla a stringere ancora di più il legame con suo marito, che la dirige. Marie, pur lavorando vicino al compagno, non smette di ricordare alla sua nuova amica Anne che vuole incontrare suo fratello. L'occasione non tarderà ad arrivare. Domani suona Nova Swan La Romaine. Sarà una bella serata. Organizzati, passo a prenderti io. Verso i primi di luglio di quello stesso anno, Marie ed Anne decidono di mettersi in macchina e di partire per andare al concerto. Marie ha 40 anni, è eccitata, è pronta a dare inizio a una nuova fase della sua vita. È il 2002. Ancora non ci si è abituati all'euro, la nuova moneta europea. Si discute in tutto il mondo delle ragioni della guerra contro l'Iraq. Troppe, tante parole. Un paradosso che in cima alle vendite dei dischi ci sia JXL che ha ripreso un hit di Elvis Presley, A Little Less Conversation. Destini incrociati. L'estate del 2002 è caotica, confusa. Venti di guerra soffiano sul mondo. Il millennio ha più presentimenti che promesse. E Marie, figlia del famoso attore Jean-Louis Trintignant, con la nuova amica Anne Cantat, stanno per raggiungere la band dei Noir Désir in occasione di un loro concerto. È l'occasione che Marie aspetta da tanto tempo. Conoscere il poeta francese del rock, il fratello di Anne, Bertrand. L'attrice francese conosce le canzoni dei Noir Désir solo perché la sua amica Anne gliele ha fatte ascoltare. Da che è entrata dentro di lei la melodia del rock impegnato della band francese, ma soprattutto la calda voce del cantante, Marie non è più la stessa. Ha insistito tanto per conoscere Bertrand che adesso che lo sta per incontrare quasi non se la sente. Teme di rimanerne delusa. Sono entrambi due personaggi pubblici. Lei, l'amatissima figlia di Jean-Louis Trintignant e attrice impegnata. Lui, il rocker che sbeffeggia il potere e firma appelli per le buone cause. Il successo può consumare tutto in un attimo. Ma la sera di quel concerto, nel luglio del 2002, l'incrocio delle loro anime avviene su un altro livello. Si guardano, si riconoscono, non ci sono filtri. Sono l'uno la matrice dell'altra. Ma la loro è una relazione impossibile. Marie, a Parigi, ha quattro figli, un affascinante marito di 12 anni più giovane di lei, col quale sta girando un film intitolato Janice e John. Bertrand, dal canto suo, ha un figlio, Milo, ed è sposato con Cristina, che è incinta del secondo. È impossibile, ma loro non hanno paura di cambiare i loro destini. Bertrand Cantat è un poeta prestato al rock. Inizia a scrivere e suonare al liceo, dove fonda il gruppo con un compagno di scuola, Serge Tissot. A loro si aggiunge poi il batterista, Denis Barthe, detto Nini. Questo è il nucleo storico del gruppo, come nelle leggende dai banchi di scuola al top delle classifiche. Nascono nel 1980, ma il primo disco è dell'87. La band fa un rock colto e militante, e nel 1992, con Tosta Key, arriva il successo internazionale. Per Cantat è l'impegno politico. Si schiera a sostegno dei lavoratori immigrati con i sans-papiers, partecipa ai concerti contro il Front National di Le Pen. Cantat crede fermamente che l'impegno artistico possa incidere nella storia del suo paese e del mondo, nonostante il mondo vada incontro a una spirale di odio e violenza. Noi abbiamo un concetto diverso dell'umanità. L'umanità ha solo bisogno di raddrizzare la sua direzione, di rivedere le sue linee guida. Noi diciamo quello che pensiamo, sempre, nella speranza che questo possa portare anche gli altri a farlo e a far cambiare così le cose. Nel 2001, con l'uscita di Deux Visages, Des Figures, avviene la consacrazione artistica e il successo mondiale di critica e pubblico. Si fanno conoscere anche da quelli che seguono meno il rock, soprattutto con il singolo Le Vent nous portera, Il vento ci porterà via, al quale partecipa anche Manu Chao. Da migliaia di copie vendute al primo album ai milioni di copie dell'ultimo. I Noir Désir sono un gruppo di culto della generazione no global, clandestina, libertaria, antirazzista, non violenta. E nonostante il successo, continuano a rimanere fedeli ai loro ideali. Bertrand non ha un buon rapporto con la stampa. Nutre una straordinaria ammirazione per il Nanni Moretti di Palombella Rossa, come esempio di artista che deve il suo successo più al favore del pubblico che alla benevolenza della stampa. Matrimoni a pezzi, ecco, ma come parla? Preferisce rapporto in crisi, però è così kitsch. Dove l'ha andato a prendere questa espressione? Dove l'ha andato a prendere questa espressione? Io non sono alle prime armi. Alle prime armi? Ma come parla? Anche se il mio ambiente è molto cheap. Il suo ambiente è molto? È molto cheap. Come parla? Senta, ma lei è fuori di testa. E tu? Oh! Come parla? Come parla? Le parole sono importanti. Come parla? Riusciamo ad organizzare un altro incontro con tuo fratello? Mi sarebbe utile per il film. Forse lui mi sa dare qualche suggerimento su Janis Joplin. Fallo per la tua piccola amica. Un bacio. Anne Cantà, appena vede sul display un nuovo messaggio di Marie, immagina di cosa si tratti. Già da quella prima volta che li ha fatti incontrare, ha capito di avere innescato un meccanismo irreversibile. Ovviamente non crede alla storia dei consigli sul film, ma organizza ugualmente una cena per il 27 luglio ad Arla. Ci sono Bertrand, gli altri del gruppo e qualche amico. I due si scambiano i numeri di telefono. Non saranno i consigli sul personaggio di Janis Joplin a tenere banco. Cantà ha una personalità molto complessa, più simile a John Lennon, l'altro personaggio del film. Una personalità dominata da un sentimento violento, la gelosia. I'm just a jealous guy. Gli SMS cominciano a susseguirsi numerosi. Marie scrive ogni giorno un pensiero a Bertrand, che non lo nasconde alla moglie. Lui è quel genere d'uomo. E Cristina, conosciuta durante un festival di musica rock a Budapest, lo sa. È anche per questo che l'ha sposato. Però sa anche che Bertrand, da quando ha conosciuto Marie, è cambiato. Lo stesso sente Samuel. Ha visto gli occhi dolci della moglie cambiare direzione da quella sera. La prima notte insieme, Bertrand e Marie la passano ai primi di settembre in un albergo a Parigi. È la notte della rivelazione. I loro corpi fondono, le loro anime l'avevano già fatto. Sono fatti per stare insieme. Come dirlo a Cristina e a Samuel? Per Marie è una scena già vista. Crede che riuscirà ad affrontare la questione in maniera pacifica. In fondo l'ha già fatto con altri tre compagni, prima di allora. Per Bertrand è un po' meno facile. 10 anni di matrimonio e una figlia appena nata sono un motivo in più per riflettere sul da farsi. Ci pensa Cristina, che avendo capito il coinvolgimento del marito per Marie, gli chiede di lasciare casa. Da quella prima notte per Bertrand e Marie inizia una nuova vita. Marie è la donna della mia vita. Quando penso a Cristina e ai bambini, mi sento male. Ma stare con lei è quanto di più incredibile abbia mai vissuto. Dopo questo SMS mandato al fratello Xavier, Bertrand si trasferisce a casa di Marie nel quartiere di Belleville, in Rue de la Mar. Tra l'amore appena nato e la normalità da ricreare, non è facile organizzare il tempo di tutti e due. Ci sono film da fare, figli da accudire, tournée da confermare. Bertrand tende a trascurare un po' tutto ciò che non ha a che vedere con Marie. Non lo fa come un sacrificio, ma perché è quello che sente e quello che vuole. Bertrand chiede al gruppo di cancellare la tournée in Asia. Vuole avere più tempo per Marie. L'ultima esibizione pubblica di Bertrand è del 14 dicembre 2002. In quell'occasione Marie è presentata agli altri del gruppo come la sua nuova donna. Da gennaio a giugno del 2003 gli impegni di entrambi si devono incastrare insieme alle difficoltà di avere dei figli, degli ex compagni. Dopo l'estate, la promessa è di dedicarsi un po' di più alla loro relazione. Marie nel frattempo deve andare in Lituania per Colette, il film scritto con la madre di cui è la protagonista. Bertrand decide di seguirla sul set, dove avrà tempo per pensare al nuovo album. Il 9 luglio Bertrand manda un SMS ai compagni della band. La musica è la cura al mio dolore, ma devo stare con Marie. Non amo che lei più della mia musica. Le cose si complicano quando organizzano l'arrivo a Vilnius dei rispettivi figli. Si devono mettere in contatto con Cristina e Samuel. Sono entrambi molto gelosi degli ex compagni, il che non rende facile la comunicazione. Marie lavora molto, la madre sul set la tartassa. Bertrand si annoia e da giorni ormai ha un terribile mal di schiena, per il quale i medici gli prescrivono degli antinfiammatori e il Lexomil, un ansiolitico. Il 20 giugno al Grand Hotel Domina Plaza si sente un uomo urlare e sbattere le porte nella suite numero 35. Il 2 luglio è la volta di una donna. È solo l'inizio. Gli ospiti si lamentano in reception. Bertrand e Marie chiedono scusa l'indomani. Non è semplice gestire sentimenti forti come quelli che provano loro. Lei è un'attrice, lui è una rock star. Viene facile pensare che la vita sregolata delle celebrità porti inevitabilmente a questo. Anche se a volte è solo il carattere violento di uno dei due, più che l'amore, a far degenerare il tutto. Comunque, nulla di nuovo. Il pop ha avuto altre coppie con una relazione problematica, come quella tra Ike e Tina Turner, il cui epilogo segna l'inizio di una nuova vita per la cantante afroamericana. Let me say the sins, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Destini incrociati. A Destini incrociati è la fine di luglio del 2003, a Vilnius, Lituania. Marie Trintignant, sensuale attrice e figlia di Jean-Louis, sta girando un film con la madre. Bertrand Cantat, leader della rock band dei Noir Désir, è con lei. Li ha presentati Anne Cantat, grande amica di Marie. Anne non sapeva di avere innescato l'incrocio di due destini. I rapporti tra i due amanti non sono affatto sereni. Ciao Anne, qui è sempre più difficile. Mia madre è diventata insopportabile. L'altra sera abbiamo litigato. Bertrand è sempre teso. Forse abbiamo solo bisogno di riposare. Marie si sfoga con l'amica Anne. Non sopporta che Bertrand debba sentire ancora la moglie al telefono, anche se solo per accordarsi sui figli. Lo stesso dice Bertrand di Samuel. Lo trova ambiguo. Devono interrompere i rapporti con gli ex. Bertrand litiga con Cristina al telefono e le dice di non farsi più sentire. Lo fa per Marie. Gliel'ha chiesto Marie. Lui vuole solo far andar bene la sua nuova storia d'amore. Da oggi solo innocui SMS. Maledetti SMS. Chiamami appena puoi. Niente di grave. È per il film. Marie riceve un SMS da Samuel, col quale ha appena finito di girare il film Janice e John. Lo mostra a Bertrand per fargli capire che tra loro si parla ormai solo di lavoro, niente ambiguità. Marie si sta preparando per uscire. La madre ha organizzato una cena per salutare uno degli attori del film. Si sta mettendo gli orecchini di perle, si sta passando il fard sulle guance. Bertrand è scosso per la discussione avuta con Cristina. La schiena gli fa ancora molto male, senza pensarci prende il telefono di Marie. È seduto sulla poltrona di quella squallida camera d'albergo, moquette sul pavimento, carta da parati dai toni cupi, un po' sovietiche. Mentre chiacchiera con Marie, che è in bagno, con la porta aperta, scorre sul display l'SMS di Samuel. Chiamami appena puoi, niente di grave, è per il film. Il cursore va avanti. Mia piccola Janice. A Vilnius quell'estate fa molto caldo. Marte, il pianeta dedicato al dio della guerra, fa il suo passaggio più vicino alla Terra degli ultimi 50.000 anni. Sembra che l'astrologia e la meteorologia si siano combinate per accendere animi focosi come quelli di Bertrand e Marie. Quei 365 giorni dal loro primo incontro hanno il peso di una vita intera. Mia piccola Janice sembra davvero troppo. Anche se Marie ha interpretato il ruolo di un'improbabile Janice Joplin nel film dell'ex compagno, mia piccola Janice, per chiudere un SMS, non lo può proprio accettare. Adesso è Marie a dover trovare le parole giuste. Bertrand ne ha bisogno, come ha bisogno di prendere un altro Lexomil. Il dolore lombare aumenta. A cena fanno finta di niente. Bertrand chiama Samuel col telefono di Marie e gli chiede spiegazioni, ci litiga. Al rientro in albergo vuole sapere cosa sta succedendo. Marie è esausta. Hanno anche bevuto qualche vodka di troppo. Lexomil combinato all'alcol è micidiale. Lei si sta struccando, lui la incalza. Il senso di colpa nei confronti della ex moglie e dei figli è al massimo. Deve sapere se anche Marie è intenzionata ad andare avanti o se Samuel ha ancora spazio nella sua vita. Marie perde le staffe e gli urla di tornarsene da sua moglie. Gli si getta addosso feroce, come nel suo film preferito, La donna della porta accanto di Truffaut, quello in cui Fanny Ardant dice a Gérard Depardieu la luttuosa frase «Né con te né senza di te». È un film dell'81. In quello stesso anno, Phil Collins cantava una canzone dall'atmosfera plumbea e oscura sul dolore per la separazione dalla moglie, parlando di un uomo che sta affogando, come Bertrand, quella notte. Well, you told me you were drowning, I would not lend a hand. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. Marie e Bertrand si strattonano. Dalle finestre spalancate qualcuno li sente. C'è una lotta. Lui la afferra per un braccio, le dà 4 schiaffi. Lei cade a terra e picchia la testa sullo stipite della porta. Sviene. La rabbia di Bertrand è ancora grande. La trascina sul pavimento fino al letto e la fa sdraiare. Ora nella stanza c'è il silenzio. Bussano alla porta per dire di smetterla. Bertrand risponde che adesso la smettono, che è finita. Ed è finita davvero. Tutto è già successo. Chiama la sorella Anna. È un fiume in piena, ha bisogno di sfogarsi. Racconta della litigata. La sorella cerca di calmarlo. È passata da poco la mezzanotte. Si accorge che Marie ha una ferita sul sopracciglio destro. La tampona con un asciugamani. Le dice di riposare. Lei non risponde. È già in coma. Bertrand non se ne rende conto. Chiama Samuel. Lo accusa di intrattenere una relazione equivoca con Marie. Le ore passano. La disperazione aumenta. Marie ha il viso cosparso di lividi. Non potrà girare nei prossimi giorni. Alle 4:30, Bertrand scrive un messaggio al fratello di Marie, Vincent. Vieni subito. Niente di grave. Marie dorme, ma l'ho un po' strapazzata. E temo che lunedì non potranno esserci le riprese. Vincent legge l'SMS e si precipita da loro. Bertrand gli racconta della litigata. Lui cerca di calmarlo. Quando si avvicinano a Marie, si accorgono che un rivolo di sangue scende dalla sua bocca. Ormai sono le 7 del mattino. Alle 8:10 del 27 luglio, il pronto soccorso di Vilnius provvede all'accettazione del ricovero di Marie Trintignant. Pensano ad un coma etilico, ma dopo i primi accertamenti, stabiliscono che lo stato di Marie è un Glasgow 4, coma profondo. Bertrand torna in albergo, chiama Cristina, le dice di prendersi cura dei figli, parla con un tono di voce strano, ha ingoiato tutti i medicinali che aveva a disposizione in camera, antinfiammatori, ansiolitici, analgesici. Marie è grave, la colpa è sua e vuole farla finita. Nel frattempo Nadine ha già denunciato Bertrand alle autorità lituane e gli salva così involontariamente la vita. La polizia lo trova steso nella sua stanza privo di conoscenza. Gli faranno una lavanda gastrica. Intanto l'ematoma di Marie è diventato edema e non può essere riassorbito. Il suo cervello è pieno di sangue. Quella stessa sera, Cristina e Noir Désir partono per Vilnius. Anche Jean-Louis Trintignant, il padre, arriva l'indomani. Con la ex moglie decide di far venire nella Repubblica Baltica un neurochirurgo francese per operare la figlia e sperare in un miracolo. Marie viene operata inutilmente. In Francia, in poche ore, il caso Trintignant-Cantat è sulle prime pagine dei giornali. Bertrand entra nella cella 357 del carcere di Lukischiu. Il 31 luglio, un Falcon, messo a disposizione dal governo francese, trasporta Marie a Parigi. Il 1 agosto alle 10:20, Marie si spegne. È curiosa la morte, non le pare? Quando la gente muore di malattie, sì, sarà crudele, sarà ingiusto, ma è veramente la morte. Ma quando si tratta di un delitto, di un assassinio, la morte diventa astratta. Come se la soluzione del mistero fosse davvero prioritaria. Come se si vivesse in un romanzo giallo. Comunque ora Marie Christine è morta. Così profeticamente recita nel 1983 Jean-Louis Trintignant in Finalmente Domenica di Truffaut. E adesso Marie è morta. Ed è la sua Marie. I funerali si tengono il 6 agosto nel cimitero monumentale di Parigi, dove riposano gli artisti. La madre chiede che si onori la figlia vestendosi con abiti chiari. Sono presenti molti amici di famiglia, tra questi Claude Lelouch, Catherine Deneuve, Jane Birkin e Antonio Tabucchi, che legge per lei dei versi di una ninna nanna toscana. Sei come la foglia che non cade, le tue bellezze non cadono mai. Sei come l'erba tenerina, quando cresci diventi bellina. Sei come l'erba tenerella, quando cresci diventi più bella. La Lituania sta per entrare nell'Unione Europea. Sa di essere sotto esame e deve dimostrare di saper giudicare i colpevoli di crimini commessi nel suo territorio. Nonostante la richiesta di estradizione, Bertrand viene processato a Vilnius. A marzo del 2004 viene condannato a 8 anni di reclusione per l'uccisione di Marie Trintignant e trasferito in Francia, nel carcere di Muret. Nadine lo chiama assassino. La stampa ne parla come di uno squilibrato violento che fa uso di droga ed alcol. Il movimento femminista fa di Marie il simbolo della violenza sulle donne. Nadine sostiene che l'ultimo SMS ricevuto dalla figlia quel 14 luglio del 2003, dopo la loro litigata sul set, fosse in realtà una richiesta d'aiuto. Quella firma, "Ta fifille battue, la tua piccola malmenata", sarebbe stato un chiaro riferimento alle percosse che stava ricevendo dal compagno e non un modo di ridere della strapazzata che lei, la regista, le aveva dato durante le riprese della scena. Non è facile schierarsi in queste circostanze. In un'intervista, Bertrand dichiara: "Penso sempre ai figli di Marie. Io li amo. Penso continuamente a loro, a Jean-Louis, So la disperazione con la quale vive, a Nadine, a Vincent. Chiedo loro perdono dal più profondo del mio cuore. Spero che un giorno mi ascolteranno. Nel 2005 esce En Public, il nuovo disco dei Noir Désir. Bertrand è riuscito a metterci la sua impronta anche dal carcere. I suoi compagni non l'hanno abbandonato mai. Esce di galera nel 2007 in regime di libertà condizionata e Nadine protesta perché dice manda il messaggio sbagliato sulla punibilità della violenza contro le donne, anche se nel 2009 firma la petizione per il rilascio immediato di Roman Polanski. In questa storia c'è una sola realtà. Marie Trintignant è morta. Bertrand è stato punito dalla legge, anche se la prigione certamente per lui non è finita quel 16 ottobre del 2007. La prigione è dentro di lui per sempre. Bertrand, mentre ritorna alla sua casa di Parigi, a Porte de Clignancourt, non può che pensare a quanto è successo. Lo farà ogni giorno della sua vita, probabilmente, ma quel giorno, neanche a farlo apposta, la radio suona il Linkin Park di What I've Done. Un triste epilogo anche per l'altra donna della sua vita, Christina, la madre dei suoi due figli, la donna abbandonata per Marie. Nella notte del 10 gennaio 2010, mentre è nella sua casa di Bordeaux, decide di togliersi la vita. Bertrand, che dorme nella stanza di fianco, nemmeno se ne accorge. È uno dei figli a ritrovarla il mattino seguente. L'amore e la morte sembrano essere la sua vita, ancora, per sempre. Che cosa hai fatto, Bertrand? Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.